conquistarti, ti canto una serenata, che sei bionda come una cometa, che sei dolce come un'aranciata, Madonna che schifo questa rima baciata. E per averti ti canto una serenata, nota che ho detto averti e non vabbè, hai capito. Ti prego apprezza questa mia sottigliezza, ho finito le rime, non sono Caparezza. Non la caghi, no, questa mia serenata, son qui che canto e ci do dentro, e non fa breccia, non perché monocorda, è solamente che tu sei nata sorda. E qui finisce questa canzone balorda, una serenata mai completata, ed è decollata la mia bionda cometa, al cantante afono ha preferito un poeta. L'ho sempre detto io, che i poeti sono dei furbetti, minimo sforzo e massima resa, e non devono neppure essere intonati.